Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo tornati in onda, 451 frammenti sonori rientra e ritorna sulle frequenze di Radio Città del Capo, oggi domenica 18 marzo, quasi lunedì 19, un saluto come al solito, come duopo, da Max Macchia. E da Eliseo Scarpa, come duopo. Come duopo. Eh? Sei contento di questa nuova sede? Ma io... La sede della radio. Dai, quale sede intendevi? Non lo so, la sede del partito. Ma la sede del partito? Quale partito? Se ancora qualche partito. Prima era il nuovo mostro. Il nuovo partito. E l'hai coniato tu, il nuovo partito. Il partito dei padroni, il PP, è vero. Il PP, è partito il partito dei padroni. Una volta i padroni utilizzavano i partiti. Adesso invece direttamente gestiamo noi. Avete rotto i coglioni, facciamo tutto noi, basta. Siete troppo squallidi, anche un po' tristi con questi. Sì, no, ma poi quando queste ruberie squallide da prima repubblica facciamo le robe facce bene noi, facciamo i padroni direttamente, ve lo diciamo anche, sì, così non servono neanche banche, la chiesa, non servono neanche gli appalti, ma fanno no, tutto loro direttamente, che problema se le gestiscono qua? Loro come la fanno tutto loro, sì beh, poi c'è stata anche una dichiarazione importante, l'ho sentita, bene, a posto, continuiamo così alla Susanna Camusso, va bene, stiamo andando bene, facciamo, caliamo sempre di più, come dire, le braghe, non volutamente, perché qualcuno magari piace anche farlo, ma non è questo il caso, le caliamo proprio in maniera non voluta, anzi, vabbè, continuiamo così, facciamoci del bene, ma no? Continuiamo, via, perché no, no? Ecco, come cantava quello lì qualche anno vero, fa. È vero, perché no? E noi sul tema appunto dei minimalismi esistenziali, quotidiani, generali di questi anni, abbiamo pensato di studiare, di inventarci una trasmissione legata a un filone musicale che entrambe ci appassiona parecchio da molti anni. È fondativo proprio. Fondativo anche della trasmissione, hai ragione. Minimalismo, corrente musicale assolutamente adorata quasi dai sottoscritti, che abbiamo voluto cercare di riattualizzare, di ripensare attualmente, dunque abbiamo chiamato la trasmissione di stasera Minimalism Now, appunto quasi un richiamo attuale rispetto a quello che noi intravediamo di minimalismo tra autori storici del minimalismo che ancora ora stanno facendo uscire degli album, a delle nuove realtà musicali, di nuovi progetti di questi ultimi anni zero che si avvicinano in alcuni casi in maniera più marcata, in altri casi in maniera meno marcata, al minimalismo come corrente storica degli anni 60-70. A questo punto partiamo con un colosso, veramente un colosso. Che è tornato. Dopo un po' di anni, lavori insomma editati in maniera limitata, insomma il lavoro importante veramente mancava da tempo, il lavoro importante per Terry Riley. E qui appunto facciamo questo gioco, se avevamo pure l'ultimo della Monte Young di Philip Glass, facevamo proprio il botto. Anche se poi diciamo che Terry Riley, e poi svegliamo, tanto i quattro sono loro, insomma, il quartetto magico. Quindi c'è anche un lavoro di Steve Reich uscito da poco, quello di Riley, proprio uscito in questi giorni, Reich qualche mese fa, ma siamo appunto nell'oggi, nel now appunto della trasmissione. E, sì, è anche una buona scusa, come dire, per inserire monumenti, anche se magari non piacerebbe né a Steve Reich né a Terry Riley essere infatti considerati dei monumenti, visto anche ancora quella voglia che hanno rispetto invece a Glass, che proprio da 25 anni non è andato, non ne vuol proprio sapere di fare una roba un po' più decente, vabbè, e non c'è verso, ovvio, neanche dal vivo, perché qualcuno insomma, no, dal magari vivo io l'ho visto qualche anno fa, no, io l'ho visto dopo di te, e lasciamo perdere stasera, vabbè, siamo un po', come dire, perlomeno catastrofici, ma con Glass veramente non sappiamo altro che dire. Poi se volete chiamarci magari ne discutiamo anche in diretta, vi mandiamo anche in diretta una discussione, chissà che interessa, Allora Zadig, John Zorn, quindi contentissimo di pubblicare questo lavoro che riprende poi le vecchie mosse di Terry Riley, ricorda lo storico Personal Surgery, stupendo lavoro sui dervisci di Terry Riley, appunto, ma stiamo parlando insomma di un disco di 40 anni fa. Riprende anche quella chiave molto minimalista anche come strumentazione, lavorato su una tastiera così che sembrerebbe anche innocua, in realtà poi Riley appunto dal minimo riesce a ricavare il massimo. In effetti ci sarà anche questo gioco tra minimale, massimale e anche con la drum music, le cose sono molto mischiate, ma comunque avremo tempo anche per spiegarvi queste cose. Terry Riley, il suo ultimo gioiello, Aleph, sentiamo la seconda parte di questo appunto nuovo lavoro del grande compositore minimalista americano. Thank you. E abbiamo omaggiato così Terry Riley, prima con il lavoro uscito in questi giorni, Aleph, che si rifà appunto all'alfabeto ebraico, la prima lettera, la nostra A, ed è un lavoro insomma che Zorn ha pubblicato per la sua Zadig, un lavoro che, come avete sentito, per chi conosce vagamente anche il lavoro di Riley, ricorda molto il primo periodo, quello dell'improvvisazione, quando Riley, rispetto agli altri minimalisti, aprì proprio all'improvvisazione dentro il minimalismo. Dopo sentiremo invece un altro che invece è sempre stato molto più algoritmico, poi aprendo verso il corale, l'orchestrale, ma vabbè, tra pochissimo presenteremo anche l'altro colosso che comunque vi abbiamo già detto prima. Abbiamo fatto un omaggio a Riley anche con un protetto, quindi alla fine c'entra anche Glass, vogliamo essere buoni. Sì, è un protetto di Glass, Nico Muli, un nome insomma che in italiano sembra provenire da qualche terra, che ne so, tipo Abruzzo, Nico Muli, cosa del genere. Molise. Forma dialetta sarda, Nico Muli. No? Anche sarda. Anche sarda, potrebbe essere. E in realtà compositore anche di insomma un certo rilievo, giovanissimo tra l'altro, dell'81. Beh, sembra più giovane dalla foto. Sembra 81, ancora più giovane. 31 anni, no, è giovane come compositore. Però se dalla faccia, dalla foto sembra veramente un bimbo ventenne, di vent'anni. Anni, può darsi che sia stata fatta a 20 anni, può essere, come si fa su Facebook, si mettono le foto di 15 ritoccate, anni prima, sì, oppure ritoccate. Nico Muli che insomma sta facendo parlare la musica colta, visto che ancora esiste e resiste, come dire, questo ambiance francesismo. In realtà Nico Muli poi è anche interessante perché riesce a mischiare un discorso elettronico a vecchie forme di minimalismo, vecchie chiaramente intendiamo originali in questo senso, anche con strutture che sono memory del minimalismo, post forse minimalismo per meglio dire, che va da a casa, intanto che ascoltavamo Nico Muli, citavamo John Adams, e personaggi che hanno reso insomma minimalismo anche una chiave più melodica, più cameristica se vogliamo, per altri aspetti. Nico Muli si muove insomma in maniera anche piuttosto così disinvolta tra minimalismo storico, elettroniche insomma che non disdegnano anche forme insomma abbastanza così potremmo definire parallele al certo glitch, perlomeno per così attitudine musicale, fateci insomma passare la cosa, e poi appunto un lavoro anche strettamente melodico che adesso sentiremo appunto in un altro disco. Qua abbiamo sentito appunto la sua versione di In Chin, proprio da un album commissionato dall'università, dalla Grand Valley State University, di dove siamo? New Music Ensemble, non sappiamo dove siamo. E infatti una cosa strana, sarà un'università, sì, musicale. Grand Valley, forse non sappiamo dov'è Grand Valley. Vabbè, comunque. In America, ma non si sa dove. Vabbè. Chiediamo se ci volete chiamare qualche ascoltatore che è andato nella Grand Valley. Io ho vicino qua, nella bassa, può dare. Sì, a Gaibola. Sì. Infatti. E appunto, dopo aver ascoltato questo splendido insomma omaggio a Riley di Nico Muli, che insomma omaggia non soltanto il suo protettore Glass ma anche appunto lo storico Terry Riley, adesso ci andiamo a sentire invece un suo lavoro completamente staccato dal discorso appunto dell'omaggio, e quindi chiudiamo insomma con la parentesi Nico Muli per poi dopo presentare l'altro colosso, sì. Colosso di Rodi. Thank you. Beh, è senz'altro evocativo di un mondo che ricorda il suo padrino Philip Glass, però c'è questo uso, come dicevamo prima, di un anche piuttosto disinvolto dell'elettronica, avete sentito, e anche queste voci che vanno quasi a glitchare, a formare questa stratificazione appunto attraverso questo incantamento quasi, no? Che sia disco insomma interessante di Nico Muli, Mother Tongue, che si muove anche su momenti strani, quasi folk in alcuni momenti, sentite ad esempio qua, ma anche momenti insomma di melodia astratta, interessante insomma il personaggio, tra l'altro molto amato dal nostro Jerry, che è vero, ogni tanto ci anticipa già da tempo, ci diceva il bravo Nico Muli. Beh, questa sera insomma l'abbiamo voluto inserire dentro Minimalismo Now. Minimalismo abbiamo now. Anche omaggiato Jerry indirettamente perché ovviamente abbiamo, ma spesso succede che inseriamo autori, musicisti vicendevolmente che poi passano appunto alternativamente tra le nostre trasmissioni, le sue trasmissioni. Bene, salutiamo anche Jerry che ci ha preceduto nella puntata canonica delle 10:30 prima del nostro programma radiofonico, e adesso entriamo a presentare l'ultimo autore di questa prima parte di 451 frammenti sonori, ed è un altro colosso, abbiamo aperto con Terry Riley. Entriamo invece nell'universo più strettamente matematico, algoritmico, come giustamente anticipava Max. Parliamo di Steve Reich. Steve Reich, altra colonna portante del minimalismo storico, ha continuato per anni a produrre e a concepire opere più o meno riuscite, ma sempre di alto valore. Reich, che insomma fino agli ultimi anni aveva realizzato degli ottimi album, delle ottime opere musicali, e da un po' mancava sulla scena musicale in termini di produzione di album, e è uscito appunto. Scusami la battuta, forse dici. No, forse sapeva che usciva Terry Riley, può darsi che abbia visto che Terry Riley stava lavorando a un prossimo album, lui l'ha anticipato facendo un po' di fretta. Effettivamente il disco non è un capolavoro, quello che presentiamo ora, però è sempre un disco di alto valore, perché Reich comunque non si è mai perso per strada, come purtroppo qualcun altro ha fatto. In questo disco, uscito appunto nella fine del 2011, qualche mese fa, insieme a Kronos Quartet, con cui spesso ha collaborato, ha fatto uscire questo disco WTC 9/11. Mi viene in mente l'11 settembre, quasi sicuramente, dunque è qualcosa di collegato. World Trade Center. Ci siamo arrivati dopo, in diretta. Questo è anche il bello della diretta. Si vede infatti la copertina, si vede proprio il fumo che si alza, che emerge. Bene, non entriamo nel merito di cosa pensa rispetto a tutto quello che è successo, perché potremmo avere delle sorprese non particolarmente piacevoli. Non mi sembra rincoglionito. No, bisogna vedere, perché sai, poi il culto dell'America, la nazione, questa potrebbe anche attraversare. Sono più critici di quello che possiamo pensare. Vabbè, che stiamo parlando di Reich, però. Guardiamo in positivo. Vabbè. Comunque, Steve Reich in questo disco effettivamente non fa uscire nulla di nuovo, veramente, anche in maniera proprio pedissequa, continua a portare avanti delle linee, delle sonorità molto vicine alle opere splendide degli anni 70 e anche dei primi anni 80. Ricorda molto questo disco Electric Counterpoint, Different Trains, lavoro uscito a metà degli anni 80, e anche certi rimandi, ad esempio all'album splendido City Life degli anni 90. Non dice nulla di nuovo, ma è sempre un disco assolutamente ben costruito, con delle linee matematiche appunto estremamente precise, estremamente minimaliste, con Kronos Quartet. E l'utilizzo, forse ecco, l'unica differenza rispetto agli ultimi album di Reich, è un utilizzo molto più marcato e frequente delle voci, che lavorano appunto in una sorta di sincronismo, di accavallamento melodico e armonico, che poi si fonde insieme agli archi dei Kronos per creare appunto le onde tipiche di Reich che hanno attraversato la sua carriera musicale. Ci andiamo a sentire dunque da WTC 9/11 2011, uscita alla fine del 2011, di Steve Reich, i due brani 2010 e V2C. I was sitting in class, four blocks north of Ground Zero. I was taking my kids to school. The first plane went straight over our heads and into the building. My eyes just kind of shot up. Flames. One of the towers just in flames. But we all thought it was an accident. Accident. I knew it wasn't an accident right away. Everyone was running. Everyone was running and screaming. Then The second plane hit. It was not an accident. It was not an accident. People. Jumping from the building. People. The first ambulance that got there. It was chaos. Nobody knew what to do. Nobody. The ground started shaking. You could feel it. The building came down. Suddenly it was black outside. Suddenly Suddenly, it was black outside. You could not see in front of you. Engulfed everybody. Debris engulfed everybody that was there. The bodies were moved to large tents. Large tents on the east side of Manhattan. Thank you. world to come. I don't really know what that means. Ich rufe an, wer war?